Illudimi ancora, solo così, sempre così, ti ricorderò. Stringimi forte, forte, fammi sognare con te. Con me, resta con me, illudimi ancora. Vivo di te, non dimenticar. Ti porterò nascosta nel mio cuore, per sempre soltanto per me, e vivrò. Con te.